fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Non è voluto, non è voluto, lo diciamo qui su Resto Radio Convento, un altro componente del gruppo di Montisola, questa sera 4 compleanni, giusto, se non mi sbaglio, stanno festeggiando questo e si stanno dando il cambio per raccontarci un po' di cose di loro, della loro festa, del loro paese o città, non so neanche cos'è, un paese o una città? Paese, bene, 1800. Allora, tu come ti chiami? Andrea, molto bene, mi sono già bruciato la domanda da dove vieni, perché l'abbiamo capito. E... dai, chiedimi quanti anni ho, dai. Quanti anni hai? Oddio, quanti ne dimostro? No, dai, 27. Te lo giochi così. Ah, 27, Andrea. Ma quanti 27 anni siete stasera? Un botto. Un botto? Eh sì, no, perché due dei quattro compiono 27 anni. Mi pare che di un'altra tua sorella, ma vedete, esatto, 27. Sommoroso alla mia stessa età, esatto. Tu Sommoroso alla sua età. Però no, lui è festeggiato. Esatto. Due dei quattro festeggiati ne compiono 27. L'altro, sì, penso di sì. Esatto. Tu ne hai 27. Tua sorella mi diceva che un altro ne ha 26, un'altro non mi ricordo, ne ha 27. Può essere. No, sì. Un gruppo di 27. Sono divertiti quell'anno lì. No, Montisola è stato interessante. No, no, beh, insomma, crescita demografica alle stelle. Vabbè, comunque, a parte quello. Addirittura hanno fatto due sezioni a scuola. Addirittura, cioè alla B, sono arrivati alla B. Alla B. Sono arrivati alla B, insomma, a riempire un secondo registro che è stato. Miracoloso, è stato miracoloso, non arrivavano neanche alla Z del primo registro e a un certo punto miracolosamente sono stati fatti due registri, bene, e mi dicevi fuori onda che sei il fratello di Francesca, quindi una delle festeggiate che abbiamo intervistato prima e l'abbiamo un po' messa sotto torchio, che lei si è definita, cioè l'hanno definita un po' antipatica, un po'... Ha un carattere un po' strong. Sai che tra fratelli... si capisce. Se si può infierire, si infierisce subito. Sì, no? Però cioè, adesso non... Però ha un carattere, diciamo, un po' particolare. Un po' particolare. Però, è buona come il pane, sì, però... No, si capisce che poi un po' grattata via un po' la scorza, c'è tanto cuore, soprattutto perché ha parlato della sua passione per il volontariato, di quello che fa. Esatto. E quindi si sente che col trasporto con cui ne parla, ci sono molti valori all'interno di lei stessa, appunto. Però dicevo, mi sembrate un po' diversi, no? Cioè, siete cresciuti, tra virgolette, allo stesso modo? Perché tu mi sembri un po' più stiloso, lei invece è un po' più donna, col vestitino, con l'abitino. Diciamo che io sono un po' camicia più... quadri, un po' più libertino. Ma sì, calcolo che adesso io, ad esempio, per farti l'esempio, lei, nonostante abbia il lavoro... Cioè, che ne so, lei è tipo studia legge e tu studi arte o design, capito? Cioè, sì, esatto, in quel senso. È proprio indovinato, cioè, non è così, però. Però tipo, per farti capire, esatto, per farti capire la distanza dei due mondi. Cioè, io sono molto libertino, mentre invece lei è molto più fiscale. Quadrata. E come mai? Come te lo spieghi? Si oppongono. Uno dei due in famiglia doveva nascere storto. Storto. C'è un po' di distanza. Quanti anni avete? Vabbè, differenza con i tre. Tu ne hai tre più grandi. Esatto. Sei tre più grandi. Calcola che siamo tutti e due Scorpione, lei 9 novembre, io 26 ottobre. Due settimane di differenza. Quindi, non so, vuol dire qualcosa, non guardo l'astrologia, però. Abbiamo lo stesso segno. Esatto, quindi dovreste avere anche le stesse inclinazioni e caratteri, invece vi differenzi. Ma magari sotto sotto siamo più simili di quanto magari non sembra. Non sembra. O ti dirò di più, magari sopra i 30 vi invertite. Cioè tu diventi un soldato. Può essere tipo, guarda lei c'ha il moroso da 8-9 anni. No, però dico, magari sopra i 30 tu diventi un soldato e lei il colpo di matto e... Ah, può essere, ma al giorno d'oggi. Capisci? C'è gente che si sposa a 20 anni e a 50 divorziata con... No, ma indipendentemente dalle relazioni, cioè proprio cambia vita, diventa colpo di matto, si lascia andare. Tipo. Non mi stupirei. Quindi non si sa mai, non si sa mai nella vita. E tu all'interno del gruppo hai il ruolo solo del fratello della festeggiata o non so, sei anche amico di qualcuno? Allora calcola che adesso sono 2 anni che abito fuori da Montisola per lavoro, quindi diciamo che un po' i rapporti con qualcuno li ho lasciati andare, purtroppo, però comunque bene o male conosco tutti e parlo con tutti. Quindi sei quasi uno della compagnia, sostanza. Sì, fino a 2 anni fa, nel senso, ero della compagnia. Ah, ok. Adesso gli ultimi 2 anni sono andato a abitare da solo, però va bene. Vabbè, insomma, poi anche qui, come dicevamo prima, le dinamiche cambiano, la vita cambia, esatto. E giustamente uno si deve anche non tanto adattare, però insomma ci sono delle condizioni che sono quasi necessarie ed essenziali. E com'è uscire in compagnia con la propria sorella? Oddio, ci sta. Magari quelle volte ti, cioè, magari non ti sei fatto neanche la domanda, nel senso che vi è venuto, esatto, naturale. Beh, calcola che essere sincero non è che esca così tante volte, certo. No, ok. Però vabbè, quelle volte magari ti trattieni un attimo, dai. Fai la figura del fratello un po' più, essendo un po' più. Sì, beh, certo, devi dare l'esempio, la responsabilità. Esatto. Diciamo che lei sa su chi puntare, dai. Vabbè, che insomma non vuol dire poco. Esatto. Non vuol dire poco. E perché, come mai? Perché esci poco, non ti piace? Ma oddio, no, più che altro perché, come ti dicevo, gli ultimi 2 anni, essendo andato a abitare verso la città Gussago, verso Brescia, quindi tipo ovviamente abbiamo cambiato compagnie, robe varie. Eh beh, però è Montisola, escono tutti lì. Sì, beh, varie. Però dico, avrai stretto relazione anche lì o no? Sì, no, per quello. Okay. Ah, non esci tanto con loro. Con loro, esatto. Sì, ok. Come okay. Ti dicevo prima, dopo negli ultimi 2 anni un po' i contatti si sono persi, ma neanche farlo apposta, però non. Sì, ma ripeto, sono delle dinamiche che a volte uno non può neanche mettere in conto e che sono quasi automatiche, ecco, nascono e si sviluppano da sole. E cosa fai quindi nella vita? Lavoro purtroppo, sottolineo purtroppo, in un supermercato. Ah, come? Come un tuttofare, perché in 5 anni che ho lavorato in supermercato, ho fatto qualsiasi ruolo che si possa anche solo immaginare. Davvero? Sì. E beh, come e mai adesso, purtroppo? Adesso sono macellaio / terzo, non so se dico terzo si può capire, però tipo sarebbe un vice direttore. Sì, insomma. Sì, chiaro. Però dico purtroppo perché sei sempre lì. E perché i festivi non sai cosa sono. Sì, certo. E il giorno di riposo anche viene ogni morto di papa. Sì, e magari coincide col momento in cui tutte le altre lavorano. Esatto, una volta si diceva, guarda che se non studi finisci in fabbrica, adesso se finisci in fabbrica hai fatto bingo. No, addirittura? Dici. Sì, più che altro sì. Lavorare, non dico dal lunedì al venerdì, magari anche solo dal lunedì al sabato e avere la domenica libera, secondo me oggi come oggi, cioè, vuol dire tanto. Per un ragazzo più che altro. Perché vabbè, adesso tra virgolette dico ho 27 anni, quindi diciamo che un po' l'adolescenza l'ho goduta, robe varie così, però immagino uno che magari si approccia al primo lavoro, 18-19 anni, va a lavorare in un supermercato, deve stare lì tutto il giorno, il fine settimana così, è buttato via, no? Poi davvero, sconsiglio vivamente. O sono scelte da una parte, o ripeto, a volte la vita ti porta non a non scegliere, ma a dover prendere una strada e a percorrerla. Quindi, vabbè, tu hai delle ambizioni? Avresti delle ambizioni? Oddio, io sinceramente per adesso ho rifiutato tipo 5, 6, 7, non so neanche più quante volte per fare il vice direttore, quindi in senso aumento di livello e robe varie così. Sì, beh, però quello. Proprio perché implica fare ancora più ore, responsabilità, certo. Vabbè, no, ma io parlavo di ambizioni extra carrelli, no, cioè. Extra carrelli. Vuoi fare quello che tira fuori le monetine, sì, dal carrello? Tipo, quello è interessante. Si ferma fuori dal supermercato. Quello è interessante, no. Tira fuori le monetine di chi le dimentica. Tira fuori qualche vecchietta. Signora, come sta? No, quello è interessante. Guarda, ti dico, la mia passione da piccolo, cioè piccolo, anche fino ai 7-8 anni, che è stato il tallone d'Achille di mia mamma, è che io non ho mai, e dico mai, perché proprio, cioè, era il mio obiettivo di vita, mai riconsegnato un carrello, cioè non ho mai rimesso in fila, perché il mio obiettivo era aspettare, a costo di star lì un quarto d'ora, che venisse qualcuno per dargli il carrello e farmi dare l'euro di resto. Cioè, e farmi dare l'euro in cambio. Era proprio una missione quasi apostolica. Io non ho mai messo un carrello nella fila e ho sempre aspettato un cliente che entrasse e che avesse, tra l'altro, l'euro, no, non la moneta, esattamente la moneta che avevo messo dentro. Cioè, se avevo messo i 50, aspettavo i 50. Esatto. Ed è magari veramente una missione, eh? Cioè è uno stile di vita quello. E mia mamma impazziva perché giustamente mi aspettava 10 minuti in macchina e io non riconsegnavo i carrelli. Quindi guarda, però di la verità, non sei mai andato a fare la spesa di domenica? Certo. No, male, domenica pomeriggio. Peccato, amico mio, io lavoro sabato notte, lavoro venerdì notte e quindi tutta la settimana lavoro, faccio un altro lavoro. La settimana per fare la spesa. Faccio non anche l'altro lavoro, altra non vita. Credo che uno non ha 5 minuti per andare a fare la spesa. Due volte a settimana? Domenica pomeriggio per forza là una rompere le valle. No, non per forza, non per forza, però torno a dire, purtroppo con questa vita e con questi orari, dormendo la domenica mattina, dormendo il sabato mattina, devo sabato ricordare. Mattina perfetto per fare la spesa. Ma devo dormire, io lavoro fino alle 3 del mattino venerdì. Buona, dormi fino alle 9, sono 6 ore, io dormo circa anch'io 6 ore. Bene, allora ci penserò. Dai. Farlo per chi lavora la domenica. No, beh, ma io vado se c'è aperto, non perché. Ah, perché dici che se non va nessuno chiudete? Certo, no, davvero, cioè tutto è nato perché è stata una corsa, tra virgolette, un po' come gli armamenti quando si fa la guerra, no? Tipo inizia il supermercato e dice, vabbè dai, tengo un'ora aperto un'ora in più, allora tutti gli altri dicono, vabbè dai, teniamo aperto anche noi un'ora in più. Sì, sì, ho capito. Quindi poi la domenica abbiamo detto, dai, fino alla mezzogiorno anche noi. Anche noi tutti, alla fine praticamente è partito che tutti i festivi hanno tenuto aperto la domenica. Certo, ho capito. Vabbè, allora dai. Cioè, se vogliamo prendere davvero seriamente il discorso, poi alla fine, cioè tenendo aperto la domenica, i festivi, non aumenti il lavoro e quindi la richiesta di personale che devi assumere il personale, ma solo semplicemente sì, carichi di più le stesse persone. Esatto, cioè nel senso praticamente aumentano gli straordinari da fare, tra ma sono sempre le stesse persone a farlo. Sempre le stesse persone. E purtroppo chiaro, tanta gente, ma non dico ignorantemente perché voglio offendere, però nel senso magari uno non sa, dice vabbè, magari se uno tiene aperto anche la domenica assume una persona in più, invece purtroppo non è così. No, beh, io ti dico che magari il pensiero è che è una scelta aziendale, non del personale. Cioè nel senso, no, è una scelta aziendale che viene imposta alle persone. È una scelta purtroppo per far soldi, certo, ma che poi alla fine a tante volte secondo me non giustifica la spesa, tra virgolette, perché dici vabbè, tenere aperto per quelle persone che vengono a fare la spesa la domenica, magari fino a sera, non serve. Se per il semplice fatto che magari ci sono più le spese quasi fra un po' del personale e tutta la struttura che l'incasso che faccio. Certo, ho capito. Bene, bene, dai, allora senso, dai, ho approfittato un po'. No, hai fatto bene, lanciamo questo appello nell'etere e speriamo che venga raccolto. E grazie allora al nostro fratello di festeggiata che ha condiviso con noi. Grazie a te per alcuni minuti permesso di fare questo appello. Ci mancherebbe, noi siamo qui apposta per darvi libertà di esprimere la vostra opinione e le vostre idee. Il convento è una famiglia. Grande, grande. Voi siete parte della nostra famiglia anche voi. E allora grazie mille e alla prossima. Ciao, buonanotte.